scoccare della luna, ma Dio lo sa, sa che c'è chi deride, chi non ci crede, solo di fronte alla morte si ravvede, chi sia Dio è un dubbio antico, il piacere va mostrato, specialmente recitato, teatro triste si paga senza pietà, ma l'esistenza terrena veloce va, la cattiveria è un manifesto della realtà. Dio dove risiede? Ci si chiede, l'Altissimo no, non si vede. Un giorno chissà arriverà, come aria vento si vedrà. Narrano di un figlio torturato, prima idolatrato e poi malmenato. La Chiesa spiega le gesta di un uomo che non abbassa la cresta. Uomini noi siamo, è la messa, la dice pur sempre un umano, attraverso gli scritti. Spesso in cerca di adepti, un messaggio elevato in una società morta di inedia. Rassegnazione in un mondo che è dilaniato dal divario esasperato, zingarie, poeti erranti, fratelli con coltelli sempre fra i denti, sul palco sono solo mediocri figuranti.